Isto é Festa à Sexta. It's so lovely when it's sunny. Sunny day. Tonight. and Dean Away. Thank you. the chase is better than the catch. Transforming the tunes. We need your support. Oh,

é Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. Fun, just you and me tonight. You can give me what I need. You're my heart desire. Boom. Your body next to me, let's have some fun, just you and me.

dónde va.

E ti svegli la mattina che non sai che cosa fare. Tutti sanno cosa fare, tutti sanno dove andare. Pure la tua sorellina fa la terza elementare. Pure lei sa cosa fare, c'ha il culo di studiare. Tu sei senza, siamo senza occupazione. Siamo senza, è solo fare colazione. Un'esperienza senza, senza, senza, senza. Non ci sono più brioche nella credenza. Oh, oh, vero, vero, oh, vero, na, na, na, na, na. Devi darti una lavata. la voglia di dormire con quell'acqua che è gelata, gelata da morire. Ma ti squilla il campanello, chi è che spappola i coglioni? C'è Yahweh che ti saluta insieme con i testimoni. Siamo senza religione, siamo senza. Io non mi sento circonciso a sufficienza. Senza comunione, confessione, penitenza. Oh, oh, pe. Intelligente devo fare stamattina, devo prendere la macchina ed andarmene in collina, che comincia a fare caldo, l'estate si avvicina, vado e prendo un po' di sole, non c'ho un cazzo di benzina, talmente tanto grande la voglia di partire che dovrò sacrificare queste 10.000 lire. Dopo sono senza soldi, non è così importante, ma non ho nemmeno acceso che mi ferma una volante. Siamo senza documenti, abbia pazienza, lei capisce nei momenti. Siamo senza. Esca fuori senza fare resistenza. Uopopero, peo, uopero, na na na na na. Uopopero, peo, uopero. Siamo senza orologio, senza colazione, orfani di contanti perché senza occupazione. Siamo senza una casa, senza abitazione, senza televideo, senza televisione. Siamo senza maglie e mutande, senza pantaloni. Siamo senza Margherita, Napoli, quattro stagioni. Senza Italia 1, senza Italia 7, senza accendino. Siamo senza sigarette. Quando la mattina che non sai che cosa fare, prendi in considerazione che ti puoi riaddormentare, perché il sonno non ti vizia e non puoi fare senza. Non è un gesto di pigrizia ma una scelta d'esperienza. Porti un bacione a Fiorenza. Keep you dancing round and round. I can be the dance machine. Don't you say it's that good tune. We'll be right back. sono spiacente. Perdona me. Wise and keep on reading the signs of my body. I'm attraction, attention. Don't you see, baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. Yeah. And when you walk up on the dance floor, nobody can let it go. The way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you can keep on shaking it. I never really knew that she could dance like this. Spanish, como se llama, bonita, because Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel your joy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Attraction, attention. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain. Spanish, como se llama, bonita, because Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you know you got me hypnotized. So be wise and keep on beating the size of my body. Señorita, feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia. Mira, en Barranquilla se baila así. So sexy, AMF fantasy, a refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch? It's the Colombians and Haitians. I ain't guilty, it's a musical transaction. Boop, boop, zoop, boop, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfect. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. My music and Delaware. Yeah. You're the only one that can make me feel it's real, real. There ain't no lie, lie. I tell you why, cause you always got me on the ledge, you're ha, ha. Way to make this love so real, real. I need no try, try. Don't ask me why, cause you always got me on the natural, ha, ha. Café da Saita.